769 Gelato di marroni. È un gelato ordinario, ma piace. Come per lo più piace a tutti il sapore della castagna, e perciò lo descrivo. Marroni grammi 200, zucchero grammi 150, latte mezzo litro, odore di vaniglia. Mettete a bollire i marroni nell'acqua come per farne delle ballotte. Ben cotti, nettateli dalle due bucce e passate la polpa dall'ostaccio. Questa mettetela al fuoco con latte e lo zucchero e fatela bollire ad agio e a cazzaruola scoperta per un quarto d'ora. Date al composto l'odore con lo zucchero vanigliato e versatelo nella sorbettiera. Mandatelo in tavola tutto in un pezzo e se dovesse servire per 9 o 10 persone, raddoppiate la dose.